Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Questo è il Groove Master Studio di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. Buonasera, ben ritrovati. Pronti per un altro appuntamento carico di note, carico di musica e carico di beat. E oggi vorrei proprio parlare del beat contemporaneo, quello che molti musicisti definiscono backbeat. Sai di che cosa stiamo parlando, tromba, o ancora non l'hai capito? Beh, più o meno l'ho capito guardando la scaletta. Hai capito di che parliamo oggi? Sì, sì. No, ma poi perché ho fatto questa selezione, questo tipo di airplay, partendo da Mary J. Blige, perché è stato pubblicato intanto il nuovo album e vorrei parlare subito di quella che proprio all'interno dell'album viene definita da uno degli MC The Queen, Mary J. Blige. Ma non è di Mary J. Blige che parliamo per tutta la puntata, ma proprio di questo nuovo andazzo ritmico che sta spadroneggiando da quando il signor J. Dilla, lo conosci J. Dilla, no? Certo che lo conosco. No, perché non so se in Calabria è mai arrivato. È arrivato, c'ha origini calabresi J. Dilla. Ah, J. Dilla. Non lo sa neanche lui, ma sicuramente origini calabresi. Sì, perché la colpa, la responsabilità del backbeat è proprio di J. Dilla, eccellente musicista, producer e visionario, purtroppo scomparso anni fa, e proprio per opera sua che si è aperto un nuovo percorso sonoro nel contemporary R&B, nel New Soul. Cioè, praticamente, se poi sono venuti fuori il rapper Common, oppure Dwilly, oppure anche lo stesso D'Angelo, è proprio la colpa è di J. Dilla. Sì, comunque gli ha dato tutto il sound, quello che è stata la caratteristica di questi personaggi. E di questo sound, di questo mondo, del backbeat, così come viene definito, oggi ne parliamo anche con due amici che sono, non vorrei dire dei malati compulsivi del genere, però insomma ci sono abbastanza vicino. Quindi vado a presentare, aspetta perché io voglio vedere qua il codice fiscale come è stato segnato, LNDFK, questa è la pronuncia esatta. Buonasera. Linda, giusto? Sei stato bravissimo, veramente. Grazie. Un evento raro. Io volevo presentarvi come LNDFK, però non suona così bene. No, assolutamente, o London Fake. London Fake Linda, non va bene. Linda, non posso continuarlo perché dire una parolaccia, però le hanno dette veramente di tutti i colori. Ecco, ladies and gentlemen, madame e messieurs, signore e signori, per la prima volta al Soundcheck di Radio 24, il piacere di presentarvi LNDFK. Formazione napoletana ma con il sound assolutamente internazionale, che noi abbiamo già presentato qui al Soundcheck, giusto? Sì, li abbiamo già ascoltati, io sono andato anche a vederli live per mettere il sigillo di qualità. Ecco, come che bellezza, quindi mi potrei anche fare la recensione live del concerto. Sì, purtroppo non l'ho visto tutto per intero, però molto bello, devo fare i complimenti. Bene, allora partiamo bene, quindi vado a introdurvi la partecipazione di Linda Fake, perché questo è il tuo nome, no? Sì, grazie per averci invitato. Ma no, grazie a te per essere venuta. Avete fatto anche un po' di chilometri, treno, un po' di macchina, perché state a Napoli. E poi vado a presentarvi anche Dario Bass. Dario Bass, di nome e di fatto. Sì. Avvicinati un po' al microfono. Ciao. Dario. Sì, stamattina siamo partiti da Napoli, ma con immenso piacere, perché ci tenevamo a partecipare a questa trasmissione, che è un esempio di come oggi in Italia si può proporre musica internazionale, appunto di far ascoltare roba interessante a tutti. E beh, finché dura, finché dura, finché ci danno questa opportunità, continueremo nel modo migliore. Allora, prima di parlare del backbeat e anche del vostro background culturale, musicalmente parlando, e di quello che sta succedendo a Napoli, che Napoli è stata la capitale della musica per tanti anni nel nostro paese, ultimamente si era un po' addormentata, però so che c'è un nuovo fermento, soprattutto in quel che riguarda l'hip hop contemporaneo, però ce ne parlerete voi, ci racconterete qualcosa. Direi di ascoltare subito Mary J. Blige dal nuovo album. Sì, l'album si intitola Strength of a Woman e parla anche della separazione che burrascosa che ha avuto Mary J. Blige col marito che era anche il suo manager. Quindi diciamo i testi sono improntati e sono anche molto diciamo femministi. Ma da sempre, lei ce l'ha con gli uomini, quindi posso immaginare le botte che ha dato al marito. Sì, sì, infatti comunque lei è una tipa bella tosta. Si intitola Set Me Free, quindi proprio lasciami stare, lasciami libera, fammi fare quello che voglio, ce lo dice Mary J. Blige al soundcheck di Radio 24 dal nuovo album. Eh sì, è lei definita la regina del soul, Mary J. Blige. Devo dire che la regina del soul per me è sempre Aretha Franklin. Vabbè, sì, comunque un'altra generazione, un altro stile però. Altro stile, altra generazione, ma Mary J. Blige ha un numero di seguaci spaventoso negli Stati Uniti. Io l'ho ripetuto più volte, ho avuto il piacere di vederla dal vivo una parte del concerto, ho fatto come te con LNDFK, dopo un po' sono andato via perché ero andato non per vedere Mary J. Blige al Gibson Theatre, ma per vedere D'Angelo in persona con la band, addirittura prima della pubblicazione dell'album recente, quello con Sugar Daddy, The Black Messiah, e propose con tutta la band il nuovo repertorio, ma non è di D'Angelo né di Aretha Franklin che vi vogliamo parlare, bensì di Mary J. Blige. Sì, Mary J. Blige che tra l'altro sarà in Italia a luglio al Lucca Summer Festival insieme a Erykah Badu, quindi vi consiglio assolutamente di andare a vederle se riuscite. Ecco, ricordo che i nostri ospiti sono Linda Fakey e Dario Base, ovvero LNDFK, giusto? Giusto, giusto. Ecco, però voi come formazione non siete in due, quanti siete? Tre? Noi siamo in trio, cioè suoniamo in duo, in trio nei nostri live. In trio suoniamo, io canto e sono synth bass, la Nord Lead, poi Dario Base suona due synth e poi suoniamo con la batteria. È strano perché Dario Base dovrebbe suonare lui il synth bass, no? Per essere coerente. Suono anche il synth bass. In realtà il basso, cioè essendo un trio senza basso, bassless, ce lo palleggiamo. Cioè una volta lo suono io, una volta lo suono Linda, altre volte ci sono delle sequenze di basso. Quindi senti, e fate anche un po' di background vocals a Linda o no? No, in realtà no. Ma questo non va bene, Linda, no? Perché in una band contemporanea ci vogliono sempre anche i vocalist, ma magari anche con un vocoder, no? Sì, sì, infatti è una cosa che devo aggiungere, però in realtà il suono che ho di vocoder non mi piace ancora così tanto, e quindi essendo che voglio qualcosa di giusto, capito, di speciale, perfetto, devo ancora cercarlo. Va bene, fra poco, magari nella seconda parte, ascolteremo qualcosa della vostra produzione, perché oggi vogliamo parlare di Backbeat, ma lo faremo dopo aver ascoltato un altro brano dal nuovo album di Mary J. Blige. Questa volta ho scelto qualcosa di piuttosto, nel senso che nel disco Mary J. Blige si diverte a ricordare musicalmente il passato con venature certamente gospel, che non deve mai mancare in un disco black R&B di oggi, ma qui coinvolge alcuni esperti contemporanei del genere e Mary J. Blige diventa veramente tosta. Il brano si intitola Glow Up. Mary J. Blige al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E questo è lui, l'originale in persona, Jay Dilla, con la voce di Dwili, un'operazione discografica di diversi anni fa. Sembra modernissimo ancora il sound di Jay Dilla, questo producer che sul suo computer creò il suono nuovo del New Soul, combinando loop e elementi tratti da vinili di jazz. Infatti alcuni brani suonano proprio male perché si sente proprio il solco del vinile, che comunque ha creato il suono particolare di tutto quello che DJ Dilla ha realizzato, prodotto, e poi ebbe anche il buon gusto di coinvolgere nelle sue produzioni quelli che poi sono diventati i punti di riferimento del New Soul, da Common, D'Angelo, Dwili e tutti gli altri. Insomma, oggi non si può prescindere da DJ Dilla, anche se per esempio nel nostro paese, ma anche in Europa, non tutti conoscono il suo lavoro. Senz'altro è più famoso D'Angelo, DJ Dilla, chi vuole fare questo genere deve conoscere DJ Dilla, ma senz'altro anche James Brown. Insomma, non si può prescindere dal passato, ragazzi. Che dite voi? Assolutamente, cioè io credo che la figura di DJ Dilla nella musica sia stata determinante, cioè sia per noi artisti, e credo che faccia solo bene alle persone, diciamo, riuscire a entrare in contatto con questo stile, perché cioè ha veramente cambiato, diciamo, la musica, e adesso, diciamo, subiamo ancora la sua eredità. Sì, ecco. Poi se posso, cioè secondo me Gelilla, e se uno veramente vuole conoscere Gelilla deve anche conoscere quello che ascoltava Gelilla, e quindi tutta la cultura che era alle spalle di Gelilla, cioè i dischi che ha campionato, tutta la, insomma, il jazz che ascoltava lui e che ha proposto poi in versioni rivisitate, però comunque insomma c'è, cioè, questa cosa qui è fondamentale, che è la base di Dilla e di tanti altri producer come Madlib. Ci sta una cultura della soul music, della black music, jazz music. Senti, Dario Bass, io non so esattamente che cosa ha ascoltato da bambino J. Dilla. Ti posso dire che cosa ho ascoltato io da bambino. Apri un attimo quella porta. Vai, vai, vai. Vai. Linda, intanto faccio fare a lui un'ispezione. Vai, apri quella porta, vedi un po'. Vai, vai, entra, entra. Com'è? Sto tremando. Nella stanza di sogni, sì, da lì non esci più, guarda. Va bene, Linda Fechi, allora io ti voglio fare i complimenti, perché ti ringrazio. Il suono, il timbro che tu hai quando canti, il tuo approccio ritmico nella creazione anche della vostra musica credo sia determinante. Complimenti, perché grazie sei mille. Proprio una delle poche in Italia che possa rappresentare questo stile e questo genere. Grazie, grazie di cuore. Io credo che, cioè, dalla mia musica, dalla nostra musica si possa capire tutte le cose che ci hanno influenzato, tutte le cose che ascoltiamo, che poi è molto inerente anche con la puntata di oggi. Beh, ma l'ho fatta per te la puntata. Infatti, ne sono onorata. Mi sono chiuso nella mia stanzetta, che è questa, e ho fatto la selezione pensando a voi. Sì, io alla fine io sogno, diciamo, un'Italia in cui questa musica è supportata, diciamo, di più di così. Tra l'altro c'è un movimento che sta crescendo piano piano, in realtà ancora sia i promoter sia le radio non danno molta considerazione, però poi vediamo che nei live hanno una risposta molto importante gli artisti che vengono in Italia, comunque, perché quasi tutti finiscono sold out, per dire, facciamo un nome, Anderson .Paak esatto. È stato accolto benissimo in Italia, comunque non ha fatto tanti concerti, questo genere ancora non ha, diciamo, la dignità e la potenza che poi ha nella realtà. Esatto, sì. Scusami, la cosa è che io non risento, per esempio, nelle produzioni rap più importanti del nostro paese, dico in italiano, dei grandi dei best seller che vanno da J-Ax a Fedez, non risento ancora questo tipo di sonorità. Come mai? Io credo perché, cioè, ci sono delle scene distaccate musicalmente qui in Italia, ovvero non ci sono delle realtà comunicanti, cioè ci sono i musicisti jazz che suonano solo jazz, ci sono i musicisti hip hop che suonano solo hip hop, così come il rock, e diciamo che sta iniziando a partire molto lentamente questa sorta di comunicazione e diffusione tra i vari stili, però, cioè, penso sia un movimento lento e che però per fortuna sta nascendo. Quindi io potrei anche considerarmi un pioniere della situazione. Beh, hai capito, Tromba, come stanno le cose? Beh sì, tu poi già negli anni 90 comunque avevi una band che... Anche prima, guarda, cioè una band, hanno postato, Antonio Faraò, il pianista, ha postato un manifesto, un poster di un concerto fatto nell'89 a Roma, al Ballantine Jazz Festival, dove tra l'altro c'erano dai Manhattan Transfer, B.B. King, Pat Metini, e c'eravamo noi con questa band condivisa con Roberto Gatto. La band era Roberto Gatto alla batteria, Antonio Faraò al pianoforte, Danilo Rea alle tastiere, c'era il nostro amico, il compianto Marco Tamburini alla tromba, Francesco Santucci al tenore, Charlie Cannon, vocalist, con me, Max Bottini, leader dei Gabbene, che adesso vive a New York, al basso, e il grandioso Marco Rinalduzzi alla chitarra. Quella era già una band veramente trasversale, ma vi sto parlando di tanti anni fa. Invece parliamo della musica e delle cose che succedono oggi. E quindi da J. Dilla vogliamo ascoltare un signore che veramente è un maestro del genere. Quindi da DJ Dilla poi si è messo in proprio. Vi stiamo parlando di D'Angelo, e questo non è The Black Messiah, l'ultimo album, ma il capolavoro assoluto del New Soul, ovvero da Voodoo, D'Angelo con The Line al Soundcheck. Sound check. Il suono della musica. Pubblicato nel 2000, quindi quanti anni fa? 16 anni fa. Nel 2000, Mama's Gun di Eric Abadou, anche questo un album che ha fatto la storia del New Soul. Ecco, e se Aretha Franklin è da sempre considerata la regina della soul music, senz'altro Eric Abadou è la regina del New Soul. E oggi sacerdotessa. Hai la sacerdotessa del New Soul. Hai ragione, Tromba, bravo, vedi come sei attento. Mama's Gun, quindi quanti anni ha Eric Abadou? È a 46, come Mary J. Blige, stessa età. Stessa età, però continua a fare cose, come dire, sempre all'avanguardia. Sì, è lei una tipa abbastanza strana. Beh, molto strana. Beh, sì. Voi l'avete conosciuta? No, purtroppo no, non ho mai avuto la fortuna di ascoltarla live, però concordo, c'è una personalità molto stravagante, singolare ed è sempre molto all'avanguardia. Molto all'avanguardia. Devo dire che io preferisco questo tipo di suono, perché io ho amato Mama's Gun, proprio perché è un album suonato dalla A alla Z, da musicisti incredibili, che poi sono quelli che ancora oggi continuano a macinare produzioni discografiche importanti, a partire dai Roots con Quest Love, Pino Palladino e tutti gli altri. Questo è il Soundcheck di Radio 24, nostri ospiti LNDFK, ovvero Linda Fechi e Dario Bass, due terzi di questa formazione napoletana che in qualche modo cerca di divulgare il backbeat, il sound contemporaneo dell'R&B e del New Soul con una produzione assolutamente italiana. Bene, io sono contento per voi e meritereste senz'altro molta più attenzione, però certamente potreste sforzarvi un po' di più, perché io per ora conosco questo EP con quattro brani, due sono proprio minimal, cioè di un minuto e mezzo, però sto aspettando qualcosa forse di più consistente, aspetto. Stiamo lavorando a un nuovo disco e in realtà guarda, queste quattro tracce sono state veramente un sunto del sunto di tanto lavoro fatto, nel senso che per arrivare comunque a un certo tipo di sound e a gestire determinati suoni, a un po' di arrangiamenti, un po' di colori, ci abbiamo messo molto tempo. E siamo partiti da quante tracce? Almeno 8, forse 10 tracce in totale, per arrivarne poi a 4. Less is more, esatto, in questo caso. E volevamo che tutte le cose comunque ci rappresentassero pienamente, non far uscire altre cose che non erano così rappresentative. Però nel prossimo disco sicuramente ci sarà pure un lavoro più organico. Stiamo pensando appunto di inserire altri musicisti, chiedere collaborazioni magari con qualche rapper americano, chissà, si spera. Sì, sarà un disco molto più suonato. Diciamo che questo EP è breve ma intenso, a proposito di Last Blue, ed è stato paragonato a degli haiku, ecco, per la loro brevità e poesia. E devo dire che mi ha molto sorpreso positivamente la risposta delle persone, perché, beh, come sappiamo, c'è un genere abbastanza lontano e difficile da proporre qui in Italia, anche perché non c'è un background musicale di questo tipo e le persone, diciamo, non fanno una vera e propria ricerca attiva di queste cose. Però, cioè, andando in giro per l'Italia nei nostri live, ci siamo resi conto della curiosità che hanno invece le persone di questo, anche quando chiedono delle influenze. Perché non rientrate proprio nel circuito tipico dell'hip hop rap italiano e neanche in quello del jazz, esatto, che comunque si è consolidato nel nostro paese. Invece è un genere che negli Stati Uniti è molto seguito, proprio perché fonda le sue radici nel gospel, nel soul, nell'R&B, e oggi c'è la collaborazione proprio fra musicisti che appartengono a queste realtà diverse, quindi musicisti jazz che collaborano con i producer tipici dell'hip hop. Da noi questa cosa deve ancora nascere, magari potete essere voi i pionieri con me e lo possiamo fare insieme, se vi va. Sarebbe un onore anche per me, perché no? Sì, poi c'è anche un elemento fisico fondamentale, ricordiamo la teoria di Joanna Titters. Ah, ed è per quello che abbiamo scelto Eric Abadou con questo brano intitolato Booty. Tu lo sai l'importanza del booty, no? Mm, No, perché Budi, tu lo sai, okay, di che stiamo parlando. Okay. Cioè, diciamo, quella parte del fisico femminile, naturalmente, che dalla A alla Z è posizionata intorno alla Q. Questa è sempre, no? E i Budi ci hanno detto che deve essere direttamente proporzionale alla potenza del soul. Quindi se tu sei un eccellente cantante soul, devi avere anche un gran booty. Okay. Hai capito? Le cose dovrebbero stare così, però non possiamo confermare. Beh, per tante artiste funziona così, ad esempio Erika Badu ha un booty importante. Adesso io non mi sono permesso di verificare la nostra Linda Secchi. Diciamo come, che io aspiro ad avere booty nella vita. Ecco. Grande Linda. Va bene, allora Erika Badu, direi di ascoltare Erika Badu in un'esperienza recente. Questa è una versione remix del famoso Afro Blue, brano di Mongo Santamaria, ma riportato in una chiave contemporanea dagli Experiment di Robert Glasper, e questa è la versione remix con la quale chiudiamo la prima parte del Soundcheck. Ci risentiamo qui su questi schermi subito dopo l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24, il suono della musica qui dal Groovemaster Studio con l'immancabile Francesco Tromba, che ha fatto fare durante l'informazione di Radio 24, quindi non ha ascoltato niente delle notizie, una ispezione nel reparto discografia ai nostri ospiti. Infatti sono felice oggi di avere con noi gli LNDFK. Certamente no, il nome è abbastanza complicato, bisogna riflettere, bisogna pensarci bene prima di pronunciarlo, però capisco che sottolinea invece il nome e il cognome di Linda, esatto, Fechi, che è la vocalist di questo eccellente duo based in Naples ma assolutamente internazionale nel suono. Vi è piaciuta questa presentazione? Bellissima, meravigliosa, soprattutto per la pronuncia del nome, che come dicevi sarebbe il mio nome devocalizzato, che poi è anche un po' il, diciamo, una traccia che troviamo già in questa corrente. Possiamo citare Mind Design, FK Knowledge. Twigs, Knowledge. Eh sì, che utilizzano la prima parte del codice fiscale. Infatti quando io farò la band con il Tromba, la chiameremo TLS-TRB. Ti piace? Beh, però se levi Tromba, levi tutto praticamente. Che levo? Se levo Tromba... Non ha senso. Ah, non ha senso. È vero, perché adesso come comunicatore multimediale sei il Tromba. Il Tromba per tutti. Sì, sono un personaggio dei fumetti. Sì, un personaggione, come dici tu. Va bene, veniamo a Linda Fechi e Dario Bass, nostri ospiti. Intanto, tu che origini hai? Tu sei tunisina, giusto? Sì, io sono nata in Tunisia, mio padre è arabo e mia madre è italiana, quindi diciamo... Sono composta, diciamo, da due parti, da due influenze, però sono cresciuta a Napoli. Ecco, e quindi diciamo che il sound medio orientale a casa tua si ascoltava prepotentemente, perché anche Napoli ha quel tipo di background. Dio, onestamente, no. Assolutamente no. Ma perché... è bello, mi devi contraddire, io voglio sapere che si ascoltava, cioè, a casa tua. A casa mia si ascoltava poca musica, ecco, infatti non so se da dove viene il mio amore per la musica, è una ricerca del tutto individuale. E il che mi ha reso probabilmente anche più affamata. Quindi diciamo che tu hai mangiato da bambina, dal couscous agli spaghetti con le no, vongole. Questo è vero, questo sì. È vero, la pizza margherita. E poi però quando uscivi di casa, che ambienti frequentavi per formare il tuo essere artista musicalmente? Diciamo che c'è molta influenza della black music e del jazz anche, che poi è stato, diciamo, il momento in cui c'è, cioè, il punto di congiunzione tra me e Dario Bass. Sì, io invece non ho origini di nessun tipo, cioè sono di Napoli, originario di Napoli. No, sono anche orgoglioso di questa cosa, nel senso, comunque Napoli è una super città che sta vivendo anche un momento super positivo, quindi siamo veramente contenti di questa cosa. E niente, le radici musicali penso che a Napoli ce ne sono veramente tantissime, cioè almeno per me, dalle canzoni napoletane, comunque mi facevano ascoltare i miei genitori, comunque ho iniziato a suonare il piano da piccolo, poi abbiamo fatto il conservatorio, bla bla. Però poi, cioè, a Napoli ci sta tanta musica, anche per esempio, che ne so, Pino Daniele è stato, cioè, per noi un esempio. Certo. Cioè, quando ho iniziato a suonare il Rhodes, principalmente ho iniziato a suonare il Rhodes perché sentivo Pino Daniele. E quindi poi noi che comunque siamo napoletani... Con Ernesto Vitolo, Gio Amoruso. Gio Amoruso, Ernesto Vitolo, certo. Fantastici. E quindi comunque voglio dire, ci sta una forte influenza proprio della musica anche di Pino Daniele, in un certo senso, nella nostra musica, essendo comunque black music, essendo roba degli anni fine 70, 80, insomma, piena di sfumature, jazzy, insomma, questo è. So, questa è una cosa che io chiedo sempre per capire come un musicista crea il suo sound, quindi volevo sapere da dove siete partiti per arrivare invece a questa pubblicazione che gli amici di Radio 24 troveranno su Bandcamp, giusto? Sì. Ecco, quindi voi avete scelto come piattaforma di lancio Bandcamp. Che è il Bandcamp della nostra, dell'etichetta con cui è uscito Last Blue, che è Philly Music. Ecco, quindi noi tutti, lo ripeto, stiamo aspettando la pubblicazione del nuovo album, per ora però vorrei presentare ancora una volta questo brano Tell Me Why, e qui si sente proprio la mentalità di musicisti appassionati che hanno studiato e che vivono il presente e sono proiettati nel futuro. Segnati questa, guardati questa presentazione, Linda. Soundcheck, il suono della musica. La voce è quella di Napalm per Yados Keyote dall'Australia con furore, brano splendido intitolato Fingerprints, quello che abbiamo selezionato in questa puntata con la quale vi stiamo raccontando l'evoluzione delle nuove sonorità partendo da quel campione di producer che era e che è stato Jay Dilla. Beh, mi sembra che Napalm con Yados Keyote abbiano trovato il loro sound, la loro strada, tant'è vero che in poco tempo sono riusciti a imporre questa loro mentalità anche in un paese come gli Stati Uniti, che è abbastanza chiuso verso gli altri paesi su certi generi. Però loro, incontrando subito il favore proprio degli artisti prima di tutto e dei musicisti, quelli che fanno la black music, alla fine hanno trovato le porte aperte in tutto il mondo. Yatus Keyote qui al Soundcheck Radio 24 con nostri ospiti LNDFK, che forse hanno visto dal vivo. Sì, io sono una grande appassionata della loro musica, cioè li trovo geniali, straordinari come me, immagino tutti gli altri. Infatti, cioè, sono andata a Barcellona pur di sentirli live e ho sentito Napalm qui al Monk e credo che loro ci abbiano e mi abbiano influenzato come poche altre cose, forse come No Name in questo momento, però veramente straordinaria. Ha fatto un nome a me molto caro. Guarda, non ho selezionato No Name in questa puntata perché l'abbiamo ascoltata quante volte qui al Soundcheck No Name? Beh sì, tipo mille volte. Allora senza che vada a tirare fuori la discografia di No Name, consiglio comunque agli amici in contatto di andare a cercare questo album di esordio intitolato Telephone di No Name e vedere che cosa combina questa ragazza, ma soprattutto il sound del disco creato da Camo B, il producer, è eccezionale. Cioè, davvero approfondite perché non ne avrete mai abbastanza, cioè anche al millesimo ascolto c'è qualcosa di più da scoprire. Esatto. Ma lo sai che mentre venivamo qui Linda mi ha raccontato una cosa su di te? Una cosa su di me? Volevo aggiungere in via del tutto confidenziale, anche perché diciamo mi ritrae scomodamente. Però dai, diciamola perché è divertente. Scusa, vabbè, raccontami, che cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa? No, diciamo che ho fatto io qualcosa. 5 anni fa Oddio. Io e Dario Bass siamo venuti a una tua masterclass nella nostra città, a Napoli. Sullo skate, sul blues. E come noi, tante altre persone arrivarono in ritardo e diciamo che io ho subito un tuo rimprovero per il mio ritardo, meritatissimo tra l'altro. Rimprovero, perché uno viene a una masterclass di musica dove il senso del ritmo, dello swing e del groove devono essere impeccabili, uno si presenta in ritardo. Vabbè, gli orari dei musicisti, si dice l'orario. Vabbè, dei musicisti. Credo di sono stato sgarbato. No, assolutamente, diciamo che mi ha segnato. Ti ha segnato? Direi positivamente. Però qui c'è Dario che potrebbe smentirmi, quindi no, dai, parliamo d'altro. Sei stato carino comunque a tuo modo, diciamo. No, a mio modo, questo è molto bello, va bene, grazie. No, tu sai che bisogna usare carote e bastone, no? Quindi siamo fatti così noi della vecchia scuola. Giusto. Va bene, torniamo a parlare di musica, quindi abbiamo ascoltato Yatos Keyote, però io quello che risento anche nella tua vocalità Lo posso dire? Certo, eh? Spero sia una cosa bella. Ma credo proprio di sì, perché ti sto per parlare di una delle mie band preferite della nuova generazione e di una delle vocalist, secondo me, più significative fra le cantanti non di colore, che è Amber Navran. Oddio. Dei Moonchild. Quindi io un po' risento dei Moonchild nel vostro suono, o no? Sì, cioè noi li abbiamo amati molto e li abbiamo scoperti un paio di anni fa. E loro sono incredibili, diciamo che proprio tutta la scena neo soul, future soul di Los Angeles, così come anche Ina Wise, Terrence Martin, Thundercat, cioè soprattutto i Moonchild ci hanno molto influenzato, sì, assolutamente, ma si sente soprattutto... No, si sente, tratti, si sente, no, ma proprio il tuo approccio nella vocalità, okay. No? E, sì, capito? Anch'io trovo molte similitudini. Perché il tuo non è dirompente, ma è molto intimo, quindi vero. È molto contemporaneo. A me piace molto, grazie. Mi piace molto l'NDFK. Sì, sono molto bravi. Ma grazie, cioè questo veramente mi rincuora sentirmelo dire, perché insomma... Dopo il rimprovero fatto a Napoli. No, sul serio, perché cioè, comunque nel posto in cui siamo, cioè, è difficile anche poter affermare questo tipo di approccio vocale in cui... Però scusa, tu stai parlando con noi siamo persone attente, facciamo questo lavoro con passione e lo facciamo sul serio, no? Sì, facciamo anche un po' di scouting ogni tanto. Allora, ascoltiamo i Moonchild, questo è dal nuovo album, il brano si intitola Cure. Soundcheck, il suono della musica. E qui si aprono i giochi, Kendrick Lamar versus Kendrick Lamar. Qualche settimana fa abbiamo annunciato che prima o poi avremmo messo a confronto le due produzioni, ovvero To Pimp a Butterfly, album che ha dato la possibilità a Kendrick Lamar di vincere diversi Grammy Award e di spopolare in giro per il mondo, con il nuovo album che si intitola Tromba Damn, ovvero Dannazione. Anch'io lo dico Dannazione, perché questo Kendrick Lamar non ha rifatto un'operazione tipo To Pimp a Butterfly e invece ha fatto una cosa più vecchio stile alla gangsta, insomma da rapper, di quelli un po' più beceroni, dai. Perché non avrebbe avuto senso fare un To Pimp a Butterfly Come non avrebbe avuto senso? Ma quel To Pimp a Butterfly è un album geniale, cioè ha coinvolto alcuni fra i migliori musicisti di jazz contemporanei, rapper, autori, arrangiatori, è un capolavoro. Sì, assolutamente un capolavoro, però comunque doveva anche cambiare, non poteva fare un To Pimp a Butterfly 2, sarebbe stato ovviamente un metro di paragone, lo sarà sempre un metro di paragone To Pimp a Butterfly. Meno male che io e te a volte non andiamo d'accordo. Sì, però anche Damn è un disco bellissimo. Sì, infatti è bellissimo, per colpa tua sono stato costretto l'altra sera a mettermi in cuffia e ascoltarlo con attenzione per dare poi un giudizio definitivo. Effettivamente Damn è un grande album, ma non mi piace come To Pimp a Butterfly, ecco, lo posso dire. Sentiamo Dario allora, Bass, voglio sapere. Io diciamo che sono appoggio la tua idea, la mia? Assolutamente. Oh, sì. Meno perché male. Perché comunque, cioè, voglio dire, How To Pimp a Butterfly ci ha fatto proprio sognare, anche per il tipo proprio di produzioni, cioè per l'innovazione che si stava portando avanti, cioè proprio tutta l'innovazione musicale, sonora, ritmica, ci sono dei nomi incredibili tipo Glasper, Thundercat che suonano insieme con Terrence Martin, voglio dire. Kamasi Washington, cioè voglio dire, se uno ascolta un certo tipo di sound, voglio dire, di Los Angeles, jazz, West Coast, deve per forza amare How To Pimp a Butterfly. Damn, io l'ho ascoltato. E secondo me è un grande disco, forse un disco molto più di rap che di musica. Ecco, però no? Dimmi, quando l'hai messo, lo chiedo anche a Linda, quando avete ascoltato Damn di Kendrick Lamar, che cosa avete pensato? Beh, io sinceramente mi aspettavo altro, mi aspettavo... Meno male, eh? Sì, il continuo, diciamo, del precedente, però... Ci sono delle tracce che mi hanno piacevolmente sorpreso e delle altre che invece non hanno suscitato in me lo stesso entusiasmo, ecco. Ecco, allora Tromba, hai capito come stanno le cose? Direi di ascoltare a questo punto Damn per capire la differenza proprio nel sound e nell'approccio fra le due produzioni. Questo è Kendrick Lamar con l'album Damn. Qui c'è la partecipazione di una gran bella ragazza, eh? Sì, Rihanna. Rihanna. Soundcheck. Il suono della musica. Soul Eyes, il suono di LNDFK con Linda Fechi e Dario Bass, nostri ospiti. Sono stato contentissimo di avervi qui nel Groovemaster Studio, che naturalmente è a vostra disposizione. Potete venire quando volete. Grazie. A creare, suonare, intrattenervi, verificare la discografia e anche a darmi una mano a mettere in ordine, perché purtroppo Tromba è disordinato proprio dentro, cioè non c'ha quell'ordine naturale del musicista. Okay. Ti prenderemo in parola, No, sì, devi prendermi in parola. Venite quando volete. Dai. Tromba, grazie. Chiudiamo? Sì, chiudiamo, non c'è tempo. Allora, intanto vorrei ricordare che LNDFK sono attivi con concerti. Come si fa a contattarvi per portarvi in giro a fare musica? Potete contattarci sul nostro profilo Instagram, LNDFK, o sulla nostra pagina Facebook. Proprio perché abbiamo ascoltato Soul Eyes, colgo l'occasione per dire: qualche tempo fa è uscita per Rocket un'intervista ed un video che ho realizzato io su Soul Eyes, che è un omaggio, diciamo, alla sensualità assoluta, in cui ci sono delle scene di Richard Kern, che è un fotografo che stimo moltissimo, e di tante altre cose, e l'ho post prodotto, realizzato e guardatelo, insomma. Ecco, infatti questa è una delle cose che apprezzo proprio del tuo essere artista, che fai tante cose e le fai con passione. Sì, quindi anche questa cosa, con che amore. Sei una filmmaker, che scrivi, che sei un artista, dai. Sì, perché credo che, cioè, diciamo, la musica è un po'... cioè, diciamo, il canale espressivo, usare soltanto la musica come canale espressivo sia un po' riduttivo per me. Mi piace riuscire a comunicare, anche perché questa musica è molto visionaria, di conseguenza, cioè, penso che sia più totale, più facile riuscire a entrare nel nostro mondo anche attraverso delle immagini, per esprimere, non so, dei profumi, dei colori, delle esperienze. E allora, lunga vita, all the best a LNDFK, spero di vedervi prestissimo dal vivo, ve lo ripeto, tornate quando vi pare. Grazie a Francesco Tromba per la partecipazione, grazie a tutti voi, noi ci risentiamo domani 19:15 sempre qui su Radio 24 con il Soundcheck, e vi voglio far ascoltare, ragazzi, chiudo con il batterista Nate Smith, molto richiesto nell'ambiente hip hop, ha fatto l'ultimo album con la sua formazione Kim Folk, e il brano si intitola The Wait con Amawat. La voce e il sound è molto forte, veri contemporary, veri New York, quindi qua c'è tutto, jazz, insomma c'è tutto, c'è tutta la musica che a noi piace. Questo è il Soundcheck Radio 24, a tutti voi buona serata e buona musica da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba. Grazie mille, ciao. Grazie a tutti.